inizialmente era un gruppo di 10 difensori dei diritti umani, stavano facendo un banale corso di formazione con due formatori, uno svedese e l'altro tedesco, arrestati appunto il 5 luglio e dopo una decina, 12 giorni esattamente di detenzione preventiva, 8 di loro sono stati rinviati a giudizio per un'accusa farsesca di sostegno a organizzazioni terroristiche senza farne parte. Tra queste persone c'è appunto un formatore tedesco, la cosa ha suscitato reazioni in Germania, c'è anche la direttrice di Amnesty International Turchia che è andata ad aggiungersi in carcere al nostro presidente, e devo dire che la Turchia è l'unico paese nella storia di Amnesty International che ha messo in galera l'intera dirigenza della nostra associazione. Questo per dire che la situazione ormai ha superato il livello di guardia in Turchia. Tra l'altro le cronache ci parlano di nuove ondate di arresti, non solo ovviamente per esponenti dei diritti umani, in questi giorni, quindi insomma si conferma quello che è successo da un anno a questa parte. Sì, è una purga che va in profondità, colpisce settori della società civile in maniera indiscriminata, perché più di 100.000 impiegati del settore pubblico sono stati licenziati, ma colpisce anche in maniera selettiva accademici, giornalisti, attivisti per i diritti umani, avvocati, esponenti della magistratura, col pretesto di aver fatto parte dell'organizzazione fondata dal predicatore Fethullah Gülen, che è sospettato di essere alla mente del fallito colpo di Stato. Erdogan sta soffocando ogni minima forma di dissenso. Germania a parte, qual è l'atteggiamento dell'Europa? È pavido, silenzioso, perché la Turchia interessa troppo dal punto di vista del contenimento dell'immigrazione per poter avere una posizione limpida sui diritti umani, e ne stanno pagando le conseguenze purtroppo in tanti. Ecco, voi avete lanciato una campagna, cosa chiedete? La liberazione immediata e incondizionata dei nostri direttrice e presidente, ma di tutti i difensori dei diritti umani. La Turchia deve farlo, ma è una grossa responsabilità. Se la Turchia lo farà o meno spetta all'Europa. Il 25 c'è un incontro tra Mogherini e il ministro degli esteri turco, e quella è l'occasione, l'ultima ormai rimasta, credo, per poter alzare la voce.